si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Eccoci qua all'appuntamento con le nostre buone notizie, le nuove tendenze che ci salveranno il sabato a mezzogiorno su Radio 24. Questa però è la programmazione estiva, vi riproponiamo dunque le storie migliori che sono andate in onda durante l'anno. Restate con noi perché ne sentirete delle belle subito, però i nostri contatti su Facebook si può fare Radio 24, su Twitter si può fare 24. Nella puntata di oggi, insomma, vi faremo sentire un po' di belle cose. Tra le tante cose che si possono fare, ce n'è però una che non si può potrebbe fare, che non si dovrebbe poter fare, ed è lavorare gratis, insomma, perché sotto mentite spoglie, stage, tirocini ci sono molti che fanno i furbetti e si approfittano. Allora è nato un gruppo che sta animando una pagina Facebook che si chiama No Free Jobs e vogliamo sentire le loro ragioni. E poi, insomma, sentiremo la storia incredibile del maestro Antonio Lacava che col suo biblio motocarro gira per il sud cercando di invogliare i bambini, i ragazzi alla lettura. Gli porta lui con la sua ape trasformata alla biblioteca i libri migliori per ragazzi che possono leggersi. È diventato un personaggio, è stato invitato al Salone del Libro, sarà coinvolto in progetti della regione, insomma, restate con noi perché questa è una storia davvero incredibile. Poi in chiusura vi faremo sentire una storia piccola di un'azienda agricola che, insomma, ha trovato la strada per esportare il meglio, l'eccellenza agroalimentare italiana con un prodotto davvero particolare che è il vino di Giuggiole. Adesso però restate con noi perché cominciamo con No Free Jobs. Se c'è stesso sfruttamento, sto sistema fosse bello, si teneva cingavallo, nonna mia era un flipper. Sfruttamento, 99 posse e bisca, perché se abbiamo appena sentito la storia del preside di ingegneria tesoriere che non vuole essere pagato per il suo doppio incarico, la pratica di chiedere lavoro gratuito e quindi una forma di sfruttamento è purtroppo molto diffusa. L'ultimo caso che ha fatto discutere è quello di Bologna, dove il bando addirittura del comune chiede ai giovani architetti di partecipare a questo bando, di fare dei progetti, però senza neanche il rimborso spese, e ha fatto infuriare l'ordine degli architetti di Bologna. Di questo tema si occupano gli animatori della pagina Facebook No Free Jobs e noi abbiamo convocato Cristina Simone che, buongiorno. Ciao a tutti. Che nella vita si occupa di social media come freelance e che è appunto una delle animatrici di questa pagina. Tu sei adesso un lavoro ce l'hai, però sì. Ti è capitato anche a te di sentirti chiedere lavoro gratis? No, mi capita tuttora, mi scrivono via mail chiedendomi se voglio scrivere o insomma se voglio svolgere un lavoro gratuitamente, quindi ancora adesso, nonostante io sia una fervente sostenitrice del movimento, continuano a scrivermi e chiamarmi. Cioè non è che ti riconoscono e sanno no, che sei... No. Dovresti andare in giro con un cartello appeso al collo, No Free Jobs, e così. No, esatto, anche un po'... Cioè, nel senso, io mi informerei prima di scrivere ad una persona, no? Quindi, forse sì. Ma viene chiesto... Cioè, spesso sugli annunci si legge in forme un po' ambigue, no? Adesso magari leggiamo anche qualcuno sulla vostra pagina. Ma anche a voce, cioè, tu fai un colloquio e ti dicono, guarda, però... Guarda, a voce personalmente no, non mi è mai capitato, però via email sì, capita, ma ci scrivono anche in tanti sulla pagina dicendo che hanno ricevuto email di lavorare gratuitamente, cioè senza nessun limite.

ci ridiamo sopra e cerchiamo anche di, insomma, di denunciare questa cosa. Perché, di denunciare, ma anche di far capire che è proprio sbagliato accettare dei lavori gratuiti. Sì! Everyone else can multiply it by 60. Everyone else can add two. Now take off 100 and add on 24. Then divide by 2 and add on 7 more. And if you're struggling now, it's not hard to tell. You don't know about show misuses everybody. La matematica è l'ossessione spesso dei ragazzi a scuola. Math Songs, questa canzone dei giovanissimi One Direction. Per introdurre l'argomento di oggi, la matematica, che però può essere invece un importante sbocco anche professionale. Pensate alla matematica, per esempio, applicata al mondo della finanza, anche se poi ci fa rizzare i capelli per altri motivi. La matematica questa volta al servizio dell'economia reale, delle imprese, un progetto del CNR, ne parliamo, ci spiega tutto tra poco, con Roberto Natalini, dirigente di ricerca del CNR, ideatore dello sportello matematico. Buongiorno. Buongiorno. Uno sportello per mettere la matematica al servizio delle imprese. Per fare che cosa? Diciamo, noi abbiamo ideato questo sportello matematico per l'industria italiana come una specie di servizio che viene offerto a tutte le imprese, piccole, medie, anche grandi, e anche alla pubblica amministrazione in realtà, per riuscire a trovare, diciamo, a scovare all'interno dei loro sistemi quali sono i problemi, diciamo i punti che possono essere migliorati grazie alla matematica. La matematica ha in questo momento un ruolo cruciale in innovazione. Mm-hmm. In tutti i paesi europei sono nate società analoghe alle nostre, hanno fondato in Francia un'agenzia proprio per l'innovazione dell'impresa con la matematica, in Canada, negli Stati Uniti esistono centri di ricerca specializzati. Noi al CNR abbiamo 3 istituti che si occupano di matematica, fanno ricerca matematica, però abbiamo sentito l'esigenza di creare uno strumento agile, un centro unico, quindi uno sportello dove le aziende si potessero rivolgere e trovare immediatamente quello che gli serve. Cominciamo a fare qualche caso concreto. Prima di tutto diciamo anche l'indirizzo, sportellomatematico.it, è un sito vero e proprio, e appunto è stato creato da voi ricercatori del CNR con una proprio linea di finanziamento pubblica del Ministero, quindi è un possiamo definirlo anche un servizio pubblico, no? È aperto assolutamente a tutti. Che cosa concretamente, quali sono le linee di intervento per poter applicare la matematica per migliorare i processi delle aziende? Poi anche a quali aziende vi riferite? Aziende piccole, grandi, medie, pubbliche amministrazioni di che tipo? Beh, diciamo, come funziona intanto, noi abbiamo creato questo sito. Questo sito permette di vedere un po' quali sono le nostre competenze, vedere alcuni casi di successo, perché diciamo non è che noi nasciamo nel nulla. In realtà dietro questo sportello ci sono non solo gli istituti del CNR, ci sono tantissimi centri universitari e non che fanno da partner allo sportello e che offrono le loro competenze. Quindi noi abbiamo assunto 4 persone con il finanziamento del Ministero che, oltre a preparare questa pagina web, cominceranno da proprio in questi giorni ad avere i primi incontri con le aziende e cercheranno di capire quali sono i problemi che possono essere affrontati con strumenti matematici. A questo punto scatta l'intervento, diciamo, il nostro primo intervento è gratis, andiamo lì, facciamo una consulenza e vediamo quale può essere, facciamo un giro proprio a 360 gradi su quali possono essere i problemi. Dopo questo primo approccio, una volta che si è focalizzato su un possibile intervento, a questo punto si vede come procedere, se è possibile fare un contratto con un centro di ricerca universitario o di un ente di ricerca come il CNR. Quindi in questo caso però si risolve il problema praticamente. In questo caso immagino parliamo di aziende grandi, perché per fare un contratto con un centro di ricerca matematico per risolvere questi problemi, insomma, naturalmente non stiamo parlando della partita IVA o della piccolissima impresa. Ecco, no, questo esattamente secondo me invece no, perché il nostro progetto iniziale è proprio di dare questo tipo di competenze anche per coloro che non si possono permettere di avere all'interno della loro azienda un centro di ricerca. La matematica, questa è una cosa importante. Vabbè, certo, in questo caso lo vengono a comprare da voi il servizio, anziché crearselo all'interno, insomma, che è più costoso. Esattamente, costa poco, perché in realtà non ha bisogno di grandissimi mezzi, noi abbiamo bisogno di computer, ma oggi computer, il costo di calcolo non è altissimo, e quello che abbiamo, di cui si ha bisogno è competenza. sportellomatematico.it, è questo l'indirizzo che dovete digitare per capirci qualcosa di più e andare a trovare questi ricercatori del CNR che con tanta passione, un po' di idee e tanta professionalità matematica stanno mettendo al servizio proprio delle imprese. Grazie intanto a Roberto Natalini del CNR, ci risentiremo più avanti quando magari avete cominciato a macinare casi e a creare così anche qualche storia da raccontare. Grazie intanto per quello che fate. Grazie, grazie a voi. Ma e che cos'è? È l'espressione algebrica, quella che ha detto lei. Ce la vuoi spiegare? Certo che ve la spiego. Allora, più meno meno, più vengo meno. Per non venir più meno, non me lo meno più. O per lo meno, me lo meno di meno. E abbiamo scuse che anche se buone non c'è nessuno che le ascolterà. E poi abbiamo già chi ci porta fino alla prossima città. Ci mette davanti a un altro microfono che qualche cosa succederà. Siamo quelli là, siamo quelli là, siamo quelli là, quelli tra pacco e realtà. Se uno è disoccupato, sicuramente ha in testa come principale obiettivo quello di trovare un lavoro, questo è evidente. Però c'è chi pensa che questo non sia l'unica preoccupazione, non dovrebbe essere l'unica preoccupazione di chi appunto è disoccupato, ma magari uno si può anche preoccupare di avere uno svago, di potersi divertire, di frequentare per esempio un teatro. A Torino il teatro gratis per i disoccupati, una iniziativa promossa dalla compagnia Stalker. Ne parliamo con Gabriele Boccaccini, che è il direttore artistico della compagnia, che lavora al teatro Officine Caos. Buongiorno Gabriele. Buongiorno a tutti. Ecco, sì. Io l'ho messa così, insomma, no? Certo non è questo, sì, il primo problema di chi non ha lavoro, però voi dite, beh, insomma, visto che noi facciamo cultura, cosa possiamo fare per chi non ha lavoro? E avete avuto questa idea. Guardate, ma per noi la cosa è venuta molto naturalmente, in quanto noi appunto dirigiamo, gestiamo un'attività teatrale con un programma articolato alle Officine Caos in un quartiere della periferia di Torino, nel quartiere Le Vallette. E niente, quindi noi spesso facciamo attività e produciamo teatro proprio insieme ai cittadini. È accaduto, quindi ovviamente conosciamo persone che vivono nel quartiere periferico, che a volte sono le persone anche più colpite da problemi relativi appunto all'occupazione, ed è capitato che alcuni di questi ci dicevano che avevano difficoltà poi a venire a vedere gli spettacoli che presentiamo dalle altre compagnie che ospitiamo nel nostro programma. E noi naturalmente abbiamo detto, beh, insomma, se una persona con cui noi abbiamo a che fare, lavoriamo abitualmente, abbiamo delle esperienze in comune, sicuramente venite a vedere gli spettacoli anche se non potete pagare il biglietto. Da questa esperienza ne è derivata poi una scelta che abbiamo ovviamente poi aperto a chiunque, sì, abbia appunto problemi di ordine economico, e quindi se è disoccupato, cassa integrato, qui a teatro può venire gratuitamente. Ecco, ma come si fa? Bisogna comunque documentarlo, no? Oppure... Ma a parte le persone che ovviamente se conosciamo, ci sono comunque volendo la possibilità di presentare i documenti, può essere semplicemente una scheda anagrafica, quella rilasciata dall'ufficio di collocamento, sì, oppure l'abbonamento, sempre che uno sia appunto iscritto all'ufficio di collocamento, l'abbonamento dell'autobus. Crediamo più che mai che appunto le persone che non hanno la possibilità di avere un'occupazione non è tanto che devono così essere mantenute per aspettare nel vuoto che arrivi un giorno o l'altro un'occupazione, ma più che mai potrebbero avere modo di sviluppare le loro conoscenze proprio nei diversi campi che la cultura può offrire. Quindi sarebbe più che mai giusto anche che questo gesto venisse colto, che è un gesto ovviamente simbolico, perché non è che incida più di tanto a livello economico per quello che riguarda una piccola struttura come la nostra, però ecco, a livello simbolico potrebbe avere un grande valore nel momento in cui venisse accolto da tante altre realtà culturali, istituzioni, musei, teatri, proprio di offrire questa opportunità, di impiegare questo tempo forzatamente libero che viene dato alle persone per dare un grande stimolo alle possibilità di conoscenze. Insomma, riprendendo un po' la famosa frase di Tremonti che diceva con la cultura non si mangia, che ha fatto infuriare molti ovviamente, soprattutto tutti quelli che ci lavorano e ci mangiano. Voi siete una compagnia, ci sono delle persone che lavorano per voi, ho letto da qualche parte che siete una trentina, e quindi i conti alla fine, anche se con difficoltà, li fate tornare, quindi con la cultura si mangia, almeno voi ci mangiate. Ci mangiamo in malo modo perché dunque io sono quest'anno il 38esimo anno di attività continuativa che sto svolgendo io professionalmente in questo campo e comunque siamo sempre precari proprio senza nessuna possibilità di uscita, precari che noi siamo una cooperativa, no? Per cui siamo al tempo stesso datori di lavoro e lavoratori. È un'impresa, la nostra, tutti gli effetti, è un'impresa che lavora per iniziativa e finalità pubblica in rapporto con gli enti, siamo riconosciuti dal Ministero, dalla Regione, dagli enti locali, e però dato che esiste, a differenza di qualsiasi altro servizio pubblico, il servizio culturale vive esclusivamente, a parte lo sbigliettamento o qualche sponsor privato, vive di contributi pubblici. Allora non si capisce com'è possibile che tutto un intero servizio pubblico come quello culturale sia fondato esclusivamente sul contributo, che può essere dato meno, perché i contributi suonano quasi come una regalia che può essere anche eliminata nel momento del bisogno perché magari non ci sono i fondi. E tra l'altro questi sono tempi sicuramente difficili per chi vive di fondi, perché fondi siamo arrivati al fondo. La sanità o i trasporti si basassero così sul buon cuore dell'amministratore di turno che alla fin fine vede se nel bilancio resta qualcosa, allora si può pagare il medico o il servizio ospedaliero. La cultura in Italia è sostenuta per lo più da questo atteggiamento del regalo che può essere dato. Però voi insomma comunque con la vostra cooperativa, con le attività che fate, siete la dimostrazione che invece è un modello anche di gestione, per quanto difficile alle prese con la mancanza forse cronica di fondi, però si può fare, si può portare avanti, e anzi soprattutto grazie per questa iniziativa che fate a favore dei disoccupati. Vi ringrazio a nome di tutti, e chi si fosse ispirato, insomma, prendete idea da quello che fanno la compagnia Stalker al teatro Officine Caos di alle porte di Torino. Grazie intanto per essere stati con noi. Grazie a voi, a presto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo insieme, vi stiamo facendo risentire le storie più belle che sono andate in onda durante l'anno a Si può fare. Questa è la programmazione estiva di Si può fare, il sabato a mezzogiorno su Radio 24 con l'altra cronaca. Ecco, tra le tante storie di cronaca che vi abbiamo fatto sentire, questa che andrete a risentire tra poco è davvero straordinaria. Era aprile quando avevamo conosciuto il maestro Antonio Lacava, che se ne va in giro con il suo Apecar trasformato da biblioteca, sì esattamente, una biblioteca, un biblio motocarro, ma insomma la storia la risentiamo tra poco con le sue vive parole. Nel frattempo vi possiamo solo dire che ci sono degli aggiornamenti, perché lui è stato invitato al Salone del Libro di Torino, verrà coinvolto in dei progetti con la regione, tutte cose che poi sono arrivate dopo questa intervista che andiamo a risentire col maestro Lacava. Devo aver avuto un herpes, dato che questo sfogo non mi è nuovo, vivo decenni dopo nello stesso clima che su questo fuoco getta più benzina. Ma non c'è più l'uomo qualunque, tutti sono qualcuno, tutti sono in vetrina. Io diventerò qualcuno senza studiare e senza leggere, e proprio per evitare che questo succeda forse, e per creare invece dei lettori, dei piccoli lettori consapevoli, ma delle persone, delle future persone consapevoli, che il nostro caro amico ospite Antonio Lacava, maestro in pensione da anni, va in giro con una biblio motocarro, ed è una storia incredibile. Buongiorno Antonio.

tantissimi paesini non ha tenuto il conto. Matera, della collina materana soprattutto, che ripeto sono piccoli, piccolissimi, sì. Ma anche della provincia di Potenza. E adesso, dopo questo impatto mediatico, sì, saranno ancora di crescono più. Le richieste anche da... La chiamano, Antonio, sì. Venga qua, venga là. E sembra quasi anche di riscoprire, Antonio, ascolti un attimo, sembra quasi anche di riscoprire, perché lei ci deve un po' raccontare anche quello che vede attraverso questi viaggi che fa, perché sembra un'Italia dei cortili, delle piazze, dei paesi, un'Italia passata, no? Per noi che viviamo in città, per esempio, sembra lontano anni luce, ma lei va anche in città o va proprio... No, per la verità io sono molto affascinato da un'idea e da una curiosità. Vorrei vedere l'effetto che fa, per esempio, il bibliomotocarro nelle periferie romane, nei quartieri di Roma e, perché no, anche nel nord Italia. Ecco, sono molto affascinato. E perché, non provare? Insomma, certo, c'è da certo, fare un po' di strada, però. Io ho presentato il bibliomotocarro con l'iniziativa più suggestiva, I libri hanno messo le ruote, il 2003 al Salone Internazionale del Libro a Torino. E devo dire, fu subito un successo. Il 2005 ho ricevuto il primo premio nazionale del Ministero delle Attività Culturali e dei Beni Librari, quale miglior progetto di promozione del libro e della lettura. Voglio dire, l'impatto, io ho constatato che l'impatto è stato sempre vincente. Molto buono. Ma lei ha vinto anche questo premio, ma le hanno dato qualcosa, un po' di benzina, sì, per esempio, per no, andare avanti? No, le hanno dato il premio, in realtà, oltre alla grande gioia e soddisfazione, consisteva anche in un premio economico di 6.700 euro che utilizzai, devo dire, per proprio ristrutturare l'ape. No, esatto, per passare dall'ape 50 a questo motocarro, che è quello che uso adesso, che è a forma di casetta, è molto carino, con tutte le vetrine che si aprono. Al di là dell'essere carina, voglio dire, l'immagine, io ci tengo a precisare che la casetta vuole richiamare anche questo, un messaggio. Vuole dire che se una certa disaffezione può cominciare a scuola, poi si mette le radici in casa. Cioè, io voglio sottolineare la responsabilità del papà, che poche volte offre l'immagine al proprio figliuolo di prendere un libro, magari... Certo, bisogna sedersi dopo cena lì a leggere il libro, non metterli davanti alla televisione i bambini, sennò chiaramente non imparano, e leggendo imparano di più. Antonio, ma so che ha avuto anche un incontro con l'assessore regionale alla formazione recentemente. Sì, ho avuto, perché... Nasce qualcosa? Direi di sì, anche perché... Io sto lavorando da alcuni anni intorno a un'idea che è molto bella, suggestiva, sì. Gliela dico: leggere dentro, guardare fuori. Si tratta di una iniziativa, di un progetto di promozione della lettura all'interno delle carceri minorili in particolare. E però, ripeto, sono due anni che io cerco di superare ostacoli burocratici. Adesso, con l'impegno della Regione Basilicata, io sono convinto di farcela. Ed inoltre approfitto per dire che sicuramente il bibliomotocarro entrerà anche in questo progetto di grande respiro di Matera, capitale della cultura europea 2019. Ah, quando sarà? 2019. 2019. Insomma, c'è tempo, però ci portiamo avanti, Antonio. Ma no, perché è un progetto sicuramente che non può essere finalizzato solo a questo evento, ma deve dare proprio la portata di un impegno che si ramifica negli anni, non può essere solo finalizzato all'evento, alla situazione. Ecco, ritorno a quel concetto, no, di familiarità, di quotidianità, cioè non può essere, per esempio, ci sono tante iniziative. Una suggestiva da noi è: a ottobre piovono libri. Ma voglio dire, ma perché a novembre piovere libri? Ce ne sono tante, però come la sua, Antonio, ovviamente non c'è nessuna, non lo batte nessuno, perché è l'iniziativa veramente più originale in questo tempo. Le dirò un particolare. L'ultima... Ma quanto tempo passa della sua giornata in giro col motocarro? Quasi tutto il tempo che... Ieri sono stata una giornata intera tra Matera e alcuni paesini, tra cui Miglionico della provincia. Ma in famiglia Antonio, sei bene a casa, cioè lei è sempre in giro. Voglio dire, la nostra è una famiglia che ha una forte connotazione magistrale, mia moglie era maestra, mio figlio è maestro. Quindi insomma capiscono la sua verve, la sua passione per questa cosa qua. È da piccolo. E sì. Le perdonano il tempo che passa fuori di casa, che è tempo speso benissimo. Io intanto mi fermo qua, Antonio, grazie per essere stato con noi, per questa... Grazie a lei perché voglio dire, sono belle opportunità, certo, queste, che di far sentire un po' la nostra voce. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ma che non ce lo sai, la roba ghiotta non è quella che trovi già precotta. Per piatto fatto in casa non se batte, de certo è meglio delle scatolette. Meglio perderci più tempo che mangiare le porcherie e si cucini, poi sta sicuro che un t'avveleni. Vabbè, abbiamo recuperato questo stornello romano, ma che te mangi, perché aveva ottenuto un certo successo, l'altra volta che l'avevamo usato per parlare sempre di questo argomento. Parliamo di cose che si consumano a tavola e diciamo la direzione di marcia ce la dà la Sigi, in provincia di Macerata, un'azienda agricola che si è meritata l'Oscar della Coldiretti per le giovani imprese, cioè per i giovani imprenditori, l'Oscar che andiamo a commentare con una delle titolari, Martina Buccolini, figlia dei fondatori di questa azienda. Martina, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oh, l'Oscar l'avete preso in particolare perché insomma voi andate a produrre marmellate, confetture, anche del vino particolare e delle gelatine, andando a ripescare frutti antichi, dimenticati, perduti, che però hanno un certo successo sul mercato. Sì, infatti è un lavoro iniziato 16 anni fa da mio padre e mia madre, che hanno deciso per passione all'inizio di ripiantare dei vecchi frutti, quindi per esempio il giuggiolo, la viscola, il gelso nero. Ecco, bianco, il giuggiolo già ci evoca tutta una serie di immaginari, no? Perché uno si dice la famosa espressione andare in brodo di giuggiole, ed era un rimedio per la tosse. Un antico rimedio, sì. Con le cotte si faceva questo brodo molto molto dolce che veniva utilizzato per la tosse, insomma. E invece voi ci fate una cosa più gradevole, cioè ci fate del vino. Infatti abbiamo diciamo innovato questa, sì? Partendo da questa tradizione, abbiamo fatto un fermentato di giuggiole, è un prodotto molto particolare, il giuggiolone, è un vino dolce da dessert. Viene da ridere, perché il giuggiolone fa un po' sorridere, però sì. Parliamo in realtà di una cosa che voi esportate anche nel mondo, perché la vostra azienda si è beccata l'Oscar della Coldiretti anche per questa capacità di esportare il 30% delle vostre produzioni esportate, così? Sì, è così, infatti, perché all'estero in effetti siamo molto apprezzati per il lavoro totalmente manuale e la produzione di confetture, appunto, e gelatine in maniera totalmente naturale. Quindi non utilizziamo pectina e ovviamente non conservanti, coloranti, tagliamo la frutta totalmente a mano e la differenza si sente, insomma, al gusto e al profumo. Mm. Martina, che insomma, perché uno immagina, no, la vita dell'agricoltore, il lavoro nei campi, come una, insomma, c'è un immaginario, no? Cioè, ce l'immaginiamo. Lei invece ha studiato a Bologna scienze della comunicazione e marketing. Sì. Quindi poi è stata una scelta quella di tornare nell'azienda di famiglia, magari applicare anche qualche concetto di marketing su questo, e però senza rimpianti, o era meglio la vita di prima? No, senza rimpianti, cioè sicuramente la vita universitaria è molto bella, qualsiasi studente. Poi però bisogna lavorare, quindi. Sì, infatti, poi c'è da andare a lavorare e ho scelto l'azienda di famiglia perché in effetti mi dà l'opportunità di fare di tutto, un lavoro che comunque parte dal lavoro di comunicazione proprio, infatti gestisco la parte web dell'azienda, il sito e le pagine social network, ma anche lavoro nei campi e soprattutto faccio la marmellata, quindi sto in laboratorio. E poi mi dice che il bello è che insomma fare questo tipo di vita e di lavoro c'è molta molta variazione di temi, insomma si fanno molte cose, ci sono molte mansioni, no? Quindi non ci si annoia, questo è un pregio del vostro lavoro. È vero, è verissimo.